Allora io ho il compito così di fare un breve saluto, è un'iniziativa questa organizzata dalla Biblioteca Provinciale che con questa sera conclude il primo semestre di attività per riprendere poi con i primi di settembre, diciamo col calendario scolastico, di nuovo con iniziative di promozione alla lettura, con dibattiti per così invogliare i cittadini a crearsi un percorso di conoscenza attraverso la lettura, attraverso le ricerche anche in internet, il supporto comunque che una biblioteca può offrire al cittadino in quanto è un servizio pubblico e a disposizione a 360 gradi per accompagnare il cittadino in un percorso formativo personale, insomma in un percorso di conoscenza. La biblioteca provinciale non è qui, è in via Mendola 5, da qualche mese però abbiamo scelto di operare così in esterna, tra virgolette, nel senso che approfittiamo dell'ospitalità del Centro Trevi per così organizzare le iniziative qui in un ambiente più confortevole, più idoneo, e invece le altre attività istituzionali, tra cui per esempio i corsi per imparare ad usare internet, utilizzare le piattaforme di lettura di giornali, scaricare gli ebook e tutto quello che riguarda il mondo digitale, li organizziamo in biblioteca. Ne approfitto sempre di queste occasioni per così lanciare una pubblicità di quelli che sono appunto questi servizi particolari che continueranno anche in estate. La biblioteca rimane aperta tutta l'estate, solamente le prime due settimane di agosto faremo un orario ridotto, ma ne daremo comunicazione. Un ultimo appello, ogni anno organizziamo il premio Claudio Augusta, per cui se siete direttamente impegnati in una ricerca accademica, state completando gli studi universitari, conoscete qualcuno che è in questa condizione e si sta occupando di un tema legato al territorio, la Biblioteca Provinciale è interessata all'acquisizione di questa tesi attraverso il premio Claudio Augusta. Ci sono delle cartoline anche sotto per darvi delle informazioni ulteriori. Concludiamo in bellezza, lasciatemelo dire, questo nostro primo ciclo da gennaio a giugno di iniziative con la presentazione del volume Politica 2015, Politica 15, che riguarda appunto il 2014-15. Abbiamo con noi il piacere di avere Günther Parlaver, che è professore di scienze politiche all'Università di Innsbruck, nonché presidente della Società per gli Studi di Scienze Politiche in Alto Adige. Abbiamo con noi Elisabeth Albert, la dottoressa si occupa di ricerche appunto in questo settore presso l'EURAC, e infine il dottor Stefan Perini, che è direttore dell'AFIDL, che è un altro istituto di ricerca che riguarda il lavoro sul territorio. Abbiamo con noi anche Thomas Kager, che è il responsabile della editrice Rezia, che pubblica questi volumi preziosi, perché finalmente abbiamo l'occasione di conoscere l'aspetto politico del territorio, l'autonomia e tanti altri argomenti che ci verranno così proposti questa sera da un punto di vista accademico, di quello che è la ricerca, di quelle che sono le indagini sul territorio, sempre attuali, sempre presenti, visto che si tratta di un annuario, una rivista annuale e quindi sempre aggiornata sul pezzo, come si dice. Era una considerazione che si faceva prima, abbiamo anche riso poi con Elisabeth, se mi permette di chiamarla così amichevolmente, perché si diceva, ma insomma in questi giorni la politica ormai coinvolge tutti perché viste le varie vicende, e soprattutto la constatazione anche semplice che si può fare come cittadino è che se da una parte c'è una disaffezione che porta alla mancanza di persone che partecipano attivamente con il voto, con un'espressione che è un diritto e un dovere, dall'altra nei dibattiti più spettacolari e nei confronti faccia a faccia fra i vari candidati oppure i reportage televisivi scandalisti sono quelli che sono sempre più frequentati, più attivi. Invece sarebbe interessante restituire alla politica anche una conoscenza più approfondita di quelle che sono i meccanismi, le dinamiche, i principi fondamentali, e per questo ritengo che una rivista, una società e le persone che vi collaborano possano restituirci una visione più serena ma anche più corretta di quello che può essere la politica, in fin dei conti un argomento che ci appassiona, e visto che siamo animali politici, come dai tempi dell'antica Grecia ci è stato detto, speriamo, questo è un auspicio, un augurio che vorrei condividere con voi questa sera. Grazie ancora della vostra adesione a questo invito e buona serata a tutti. Grazie Valeria, e grazie alla Biblioteca Claudia Augusta che aveva la possibilità di presentare l'attuale numero edizione della politica proprio in questo ambito al Centro Treddi. La politica è un annuario di politica proprio che tratta la politica dell'Alto Adige, trilingue, tedesco e italiano, un po' anche in ladino, qualche volta anche in inglese, abbiamo già avuto degli contributi anche in lingua originale in inglese. Tratta proprio l'anno sempre precedente, analizza uno punto forte, cruciale, è sempre quel saggio della sintesi critica dell'anno politico 2014 in questo caso, stavolta l'ha scritto proprio Günter Perlauer stesso, altre volte altri autori, e in questo caso tratta proprio quella problematica della perdita di fiducia, che è un problema generale che ognuno conosca forse, no, o lo vive anche forse un po'. La politica come annuario, come rivista, ha sempre dei punti che si ripetono ogni rubriche che si ripetono ogni anno, che è anche il tema dell'educazione politica, che è anche delle recessioni e gli avvenimenti dell'anno precedente sempre. E poi c'è la tematica proprio dell'anno, che quest'anno è proprio la tematica della governance, che governance forse è un po' un termine dove le persone non sanno cosa vuol dire, sono le politiche che noi conosciamo, anche le politiche della salute, le politiche dell'educazione, ne abbiamo altri casi, famiglia, integrazione, mobilità, energia, economia, sono proprio quei casi diciamo politica che noi li viviamo, anche non è soltanto un'analisi molto generale della politica, sono proprio quegli ambiti dove c'è anche tutta la burocrazia che noi alla fine siamo confrontati con. Bene, questo è un po' quel che riguarda sia la l'edizione attuale che anche la rivista in generale, i numeri precedenti, alcuni dei numeri precedenti ne abbiamo anche qua, la rivista è in vendita, si può anche fare l'abbonamento e basta rivolgersi a me. Adesso do la parola a Günther che lo sa, inizierà con la presentazione. Sì, grazie, buonasera a tutti. Come è stato detto, appunto, questo annuario si occupa ogni anno di una tematica centrale, ovviamente la scienza politica si occupa sempre anche delle elezioni, perciò anche in questo numero c'è un saggio sulle elezioni europee del 2014, tra l'altro. Dunque, cercherò di spiegare un po' il filone conduttore dell'ultima edizione. Noi abbiamo pensato appunto qual era questo filo conduttore dell'anno scorso, e secondo noi era appunto la perdita di fiducia. La questione della fiducia era un punto centrale che aveva caratterizzato quell'anno, 2014. Dunque il 2014 era un anno importante, anche con segnali molto positivi. Per esempio c'era un passaggio della vecchia gestione provinciale da Durban a Compaccio, c'è stato l'invito al presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, che è venuto a Castelfresole, c'è stato poi un accordo finanziario, un patto di garanzia tra Roma e Bolzano, c'è stata l'inaugurazione della mostra Bolzano 1845, il momento della vittoria, che secondo molti è stato un punto di non ritorno, un passo molto importante, però d'altra parte sono stati anche appunto dei momenti abbastanza critici che riproponevano praticamente questa lunga ondata che era già presente nella società, e con questi eventi poi c'era stato una eruzione, cioè il vulcano che insomma. Allora abbiamo avuto specialmente la questione, lo scandalo della SED che tutti conosciamo, e poi c'è stato anche lo scandalo dei vitalizi. E se poi analizziamo appunto l'atteggiamento della popolazione riguardo appunto in base a queste cose che si sono scatenate, possiamo individualizzare tre momenti, cioè la perdita di fiducia a tre livelli, tra i cittadini e le istituzioni politiche, tra cui anche i partiti specialmente, tra la provincia dell'Alto Adige e lo Stato Italia, ma anche tra l'Italia e l'Alto Adige. Dunque la fiducia per ogni sistema politico è un momento centrale, è una delle più importanti forze di sintesi all'interno della società, e appunto è un orientamento che dà coesione alla società. La sfiducia invece praticamente è in pratica l'antitesi della fiducia, e la società della sfiducia tra cittadini da una parte, ma anche tra cittadini e le istituzioni, se manca appunto la sfiducia, manca innanzitutto questa coesione importantissima per il funzionamento di ogni sistema politico. Dunque, se diamo uno sguardo alla sfiducia, guardando appunto anche le elezioni europee, vediamo che la sfiducia verso l'Unione Europea si è un po' allentata. L'anno scorso c'è stato appunto un sondaggio che diceva che la fiducia verso l'Unione Europea è rimasta abbastanza stabile, mentre appunto in Italia questa fiducia verso l'Unione Europea è nuovamente diminuita in confronto al 2010, una perdita di 22 punti. Nel 2010 eravamo al 44% e adesso siamo circa al 27%. Ma anche la fiducia in Italia verso le istituzioni è stato insomma un gioco al ribasso. Un confronto tra il 2010 e il 2014 è l'ultimo sondaggio che è stato fatto per vari settori. Abbiamo una sfiducia verso lo Stato del 15%, in 5 anni insomma la sfiducia è aumentata del 15% e siamo al momento al 15%. Solamente il 19% della popolazione esprime la propria fiducia nelle regioni, anche questo, mentre una volta questa territorializzazione della politica era molto gettonata, anche questo settore va diminuendosi, e anche verso i comuni insomma questa fiducia è stata molto ridotta, mentre appunto specialmente per quanto riguarda i partiti al giorno dicembre 2014 la fiducia verso i partiti si era ridotto al 3%, mentre anche la fiducia verso il Parlamento italiano si è ridotto all'8%, senza fare tanti confronti con altri paesi, in questo caso l'Italia è insomma fanalino di coda. L'Alto Adige invece appunto, se diamo un'occhiata al territorio nostro, mentre negli anni 90 la fiducia verso le istituzioni, verso la politica era abbastanza soddisfatta, una fiducia insomma, consolidata, circa 10 anni fa questa sfiducia incomincia a espandersi, e incomincia specialmente perché c'era questo pessimismo verso l'economia. Abbiamo insomma dei sondaggi che ci dicono che in questi anni il governo Prodi 2006-2008 questa fiducia, specialmente una sfiducia alimentata anche dalle critiche da parte dell'economia dell'Alto Adige, fa sì che appunto nella popolazione altoatesina comincia questa sfiducia verso insomma non tanto verso la politica, ma verso uno sviluppo positivo. Con lo scandalo SED e lo scandalo dei vitalizi questa sfiducia insomma aumenta in modo molto rilevante. Dopo, mentre in gennaio del 2014 la fiducia verso la politica era abbastanza, insomma, ancora diciamo, abbastanza equilibrata, dopo lo scandalo dei vitalizi la sfiducia verso la politica arriva al 75%. La popolazione dell'altoatesina aveva una sfiducia verso i partiti e verso la politica del 75%. La cosa interessante era quella che c'era praticamente una frattura tra la popolazione tedesca e quella italiana, mentre la popolazione italiana aveva una sfiducia verso la politica, tra virgolette, solo del 47%, la popolazione di lingua tedesca ne riportava più dell'80%, 82%. Poi questa sfiducia si è ridotta un po' al 60%. Ma oltre a questa sfiducia che possiamo riportare tramite i sondaggi fatti, vediamo che questa sfiducia si articola anche in altri settori. Per esempio, la rivendicazione sempre più forte di prendere in mano lo scettro della democrazia, chiedendo appunto la democrazia diretta per molte cose. Insomma, c'è un movimento sempre più spiccato che chiede appunto di decidere direttamente e non lasciare appunto la decisione ai rappresentanti. Inoltre c'è un nuovo fenomeno che però non è solamente un fenomeno dell'Alto Adige, ma un fenomeno che ha descritto molto bene il politologo africano Fukuyama, che parla della vetocrazia. La vetocrazia significa che la classica suddivisione dei poteri, ma con questo anche appunto la fiducia verso le istituzioni, verso la politica, ha trovato un'implosione, perché ci sono sempre più attori della società che non sono più disposti a fare compromessi. Significa che non si è più disposti ad accettare anche delle decisioni della maggioranza. Fukuyama parla dei tribunali, delle commissioni parlamentari, gruppi di interesse, commissioni dipendenti dei mass media, e lo possiamo vedere un po' anche in Alto Adige, che c'è questo atteggiamento molto forte, individualista, che non accetta più decisioni che la politica prende. Per esempio, se vogliamo entrare nella politica del giorno d'oggi, il fatto che ieri nel comune di Bolzano una consigliera ha votato contro la nuova giunta rientra proprio in questa logica della vetocrazia, perché questo interesse personale che è molto identificato con questo suo interesse personale fa sì che ovviamente tutto quello che una volta si chiamava il bene comune non è più all'ordine del giorno. Se poi entriamo nella fase dei rapporti tra Alto Adige e lo Stato, vediamo che in Italia c'è un forte movimento regionalista ancora. Nel dicembre dell'anno scorso il 53% dei Veneti volevano la separazione dall'Italia, ma c'erano poi anche le isole con il 45-44%, la Sardegna e la Sicilia, ma anche le regioni del centro come Lazio e la Lombardia, Piemonte, tutti sul 40%. Alla fine possiamo vedere che anche la popolazione in Alto Adige, l'ultimo sondaggio che risale al 2013, 54% della popolazione di lingua tedesca era per l'indipendenza dall'Italia. Ma questi sono momenti che passano anche. Quello che è molto più interessante è il fatto che, per esempio, i partiti autonomisti alle ultime elezioni del provinciale del 2013 hanno perso terreno. Se pensiamo che nel 1973, le prime elezioni dopo il secondo statuto di autonomia, praticamente tutti i partiti tranne che l'MSI del 4% erano partiti autonomisti. Al giorno d'oggi i partiti autonomisti sono scesi al 68%, mentre appunto i partiti anti-autonomisti, quelli che vogliono la secessione con lo Stato indipendente, su 35 consiglieri hanno 10 consiglieri, nonché appunto il 30% circa del consenso. Poi c'è anche il secondo fattore, il rapporto tra lo Stato, non solamente lo Stato, il rapporto dell'attuale verso lo Stato, a parte che è molto interessante vedere l'argomentazione di chi vuole la secessione, non è più una questione etnica, ma è una questione economica. Praticamente gli attuali sindaci che vanno alla secessione sono profughi economici, quindi non profughi politici, ma più che altro profughi economici. Poi però c'è anche l'inverso, il rapporto dello Stato con l'attuale, e anche qui vediamo che proprio nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, c'è stato sempre più una posizione critica verso l'autonomia speciale, coinvolgendo anche il Trentino. Si comincia già con il governo Monti, dove insomma l'ambito della politica di saneamento delle finanze, insomma le competenze autonome non vengono rispettate, ma si va oltre, perché ovviamente anche rappresentanti del governo stesso, come la ministra Boschi per esempio, era per l'abolizione delle regioni di statuto speciale. E per la prima volta, dopodiché l'attuale è sempre stato presentato come una provincia, insomma una provincia modello, per la prima volta nel 2014, la stampa italiana si parla in modo anche negativo dell'attuale, riprendendo appunto questi scandali di cui abbiamo parlato all'inizio, nonché appunto anche gli scandali non solamente dei vitalizi, ma anche appunto del salario dell'ex presidente Durnwald, che guadagnava più di Obama, come si diceva, oppure appunto la questione del fondo speciale che conoscete, che attualmente c'è una procedura in corso. Ora abbiamo praticamente questa lunga onda della sfiducia verso la politica. La domanda di chiave è ovviamente sulle prospettive di risanamento di questa sfiducia verso la fiducia tra la politica e la società civile. Su questo argomento c'è un dibattito molto ampio nella scienza politica. Riporto solo un punto che è un punto molto interessante secondo me, è quello che dice che i partiti che hanno colonizzato praticamente tutta la vita sociale dovrebbero ridursi nuovamente, ritornare alle loro funzioni primarie, tra cui per esempio il reclutamento del personale politico, ma per il resto praticamente dovrebbero tornare, insomma, a ridurre le loro funzioni. È un argomento molto, molto complicato, molto vasto, ma è un approccio che insomma si discute e vedremo se arriveremo a qualche risultato positivo. Con questo io chiudo e darei la parola a Elisabeth Halber, che ci spiegherà o ci farà entrare nella tematica centrale della politica 15, cioè della, non del governare, ma del governance, che è un'altra cosa. Il governo non è quello di cui ci siamo occupati, ma ci siamo occupati della governance. Sì, grazie Günther. Sì, principalmente la politica 15 come tema centrale aveva la governance, si può dire aveva come tema centrale l'organizzazione. Aveva come tema centrale l'organizzazione politica in Alto Adige, come sono organizzati i singoli ambiti della politica, come funzionano le rispettive strutture e come, e soprattutto come sono le costellazioni di attori politici. In parole povere si può dire che le domande chiave che abbiamo posto ai diversi attori che hanno si sono occupati delle varie politiche, degli ambiti della politica, abbiamo posto la domanda chi, cosa, come, con chi, perché e su quali basi sia legislative che diritti politiche. Principalmente quando abbiamo deciso che questa è una tematica che potrebbe essere di interesse sia per il lettore altoatesino che per la comunità scientifica in generale, ci siamo subito resi conto che effettivamente sulla governance, sull'organizzazione politica, sulla gestione di vari ambiti in politica, in Alto Adige non si è fatto ancora praticamente quasi nulla di scientifico, la ricerca scientifica effettivamente manca non solo in Alto Adige, manca anche in un quadro più ampio, se guardiamo per esempio nell'Oregio, anche lì c'è poco, ci si è posto poco la domanda sulla governance in generale in diversi ambiti. Abbiamo principalmente cercato di individuare gli ambiti politici di maggiore rilievo e il libro contiene analisi nei seguenti ambiti che adesso ve li anticipo, che sono l'agricoltura, la famiglia, la pubblica amministrazione, le politiche energetiche, la previdenza complementare, il lavoro, la politica economica, trasporti e mobilità, e la politica sanitaria e il benessere dell'uomo in Alto Adige. Questi sono i principali ambiti dei quali ci siamo occupati e dove siamo riusciti effettivamente a coinvolgere diversi autori e autrici che si sono occupati sia ad analizzare come si è sviluppato il contenuto di queste politiche e le reti di governance negli ultimi 20 anni, poi uno sguardo su come funziona adesso e soprattutto abbiamo anche posto la domanda chi influenza la gestione delle politiche, che sia a livello europeo, che siano leggi nazionali o provinciali, quanto spazio, quanto margine discrezionale c'è in quella politica per gli attori locali. Abbiamo principalmente sviluppato i contributi in questa prospettiva di 3 parti, il passato, status quo e il futuro, con lo scopo duplice di 1) chiarire la complessità di questi ambiti di politica, perciò capire come funzionano le politiche per la famiglia, capire come funzionano le politiche di energia e così via. E il secondo scopo è stato l'ambizione di voler spiegare quali reti e quali attori stanno dietro a effettivamente la gestione, non solo la gestione ma anche lo sviluppo di certe politiche. Per fare ciò ovviamente bisogna cercare di avere sia lo sguardo dall'accademico, dalla ricerca scientifica, ma anche il corso con le persone che quotidianamente lavorano in questi settori dal punto di vista della pubblica amministrazione. Perciò l'obiettivo è stato comunque costruire un dialogo tra gli autori e funzionari affinché praticamente venga fuori anche l'aspetto pratico all'interno delle reti di governance di ogni politica che è stata analizzata nella politica 15. Come conclusione posso anticipare che in alcuni settori politici sicuramente ci sono già dei modelli di organizzazione integrata, soprattutto per reagire anche alla sfiducia dei cittadini, per reagire a tutto quello che è stato adesso appena detto e in generale a un processo di trasformazione che sia influenzato dal livello europeo o da legislazione nazionale o da attori locali, mentre in altri ambiti, in altre politiche, diciamo che altri ambiti, altri politici sono ancora abbastanza bloccati e funzionano ancora abbastanza secondo un modello più tradizionale, che dir si vuole, del sistema Alto Adige, e abbiamo sentito diverse cose già adesso da mentre parlava. Possiamo dire che il concetto di governance in generale dal punto di vista scientifico non esiste una definizione da manuale valida sempre e comunque. Perciò come definizione di lavoro abbiamo preso la governance come un insieme di sistemi di governo, di controllo e di coordinamento, nel quale ovviamente le diverse reti e i diversi attori agiscono in diverso modo. Alcuni esempi dove funziona, dove si creano delle reti e dove effettivamente funziona la governance, se pensiamo a questa definizione più scientifica, in Alto Adige, dove ci sono spazi per attori locali e dove effettivamente l'Alto Adige utilizza questi spazi, si vede che nel settore della previdenza complementare, per esempio rispetto ad altre regioni italiane, l'Alto Adige cerca di utilizzare spazi e ce ne sono. La stessa cosa succede anche all'interno delle politiche energetiche, se lo compariamo ad altre regioni italiane, anche se quest'ultime sono fortemente influenzate dalla legislazione anche dall'Unione Europea. Se prendiamo un altro esempio, l'esempio dell'integrazione, lì vediamo che tendenzialmente il settore dell'immigrazione sottostà a regole molto rigide dettate dal livello di governo nazionale, però se si prende l'aspetto dell'integrazione, lì ovviamente si vede che l'attuale c'è un margine discrezionale di azione molto ampio e che l'ha utilizzato anche poco in passato, e soprattutto in questi mesi, anche in questi giorni, si vedono tante discussioni su effettivamente come utilizzare come collaborare o non collaborare in modo positivo o negativo, dipendendo dalla prospettiva, all'interno dell'integrazione di cosiddette nuove minoranze in generale, però adesso quello che tocca anche a tutti è anche la questione dei rifugiati. In generale il tema centrale sulla governance riflette gli esiti che possiamo trarre, come esiti anche, diciamo, una conclusione anche provvisoria, perché ovviamente la governance è sempre in continuo movimento, può essere che definitivamente anche negli ambiti di politica diversi che sono trattati nel libro si vede un cambio di rotta che anche che si è visto anche in generale nella valutazione dell'anno politico, il cambio di rotta, che significa che sia a livello politico, prendiamo partiti politici eccetera eccetera, sia a livello di politiche stesse, perciò pubblica amministrazione e interazione con la società civile di per sé e con la società civile organizzata, ce ne sono diverse iniziative in tutti i settori, perché è anche dettato da una necessità di effettivamente cercare più coerenza all'interno del sistema di governance delle diverse politiche in Alto Adige. Adesso siamo molto contenti che effettivamente un attore è qui con noi, e passerei la parola, così possiamo entrare anche nel vivo con un esempio molto pratico di una politica. Passo la parola a Stefano Perini, grazie. Grazie. Qualche breve cenno sulla mia persona: io ho studiato economia politica a Trento, poi ho iniziato il percorso professionale nel 98, prima all'Eco Istituto, ma poi sono subito passato un po' nei temi statistici e economici, quindi prima all'Istituto di Statistica e poi al VIFO della Camera di Commercio, quindi seguendo un po' tutti i temi anche imprenditoriali, e adesso da 2 anni sono direttore dell'Istituto Promozione Lavoratori, quindi prima seguivo più i temi legati alle imprese, adesso più quelli ai lavoratori, ma pur sempre in un'ottica, diciamo, di un economista. Il tutto inizia nell'autunno del 2014, quando il professor Pallader contatta me e oltre a me anche altri 2 collaboratori del nostro istituto. Siamo riconoscenti anche per questo apprezzamento del professor Pallader che ha nei confronti dei collaboratori del nostro istituto. Ci contatta per diversi temi. A me a scrivere un contributo su quella che è la politica economica in Alto Adige, quindi facendo una retrospettiva cosa è successo nel 2014 e sì, come va avanti in sostanza anche. È un anno particolarmente interessante perché ovviamente arriviamo da 23 anni di politica Durnwalder, chiamiamo così, da un'era segnata da Durnwalder, adesso col nuovo governatore Compaccio, un governatore che tra le proprie mansioni ha anche la mansione della politica economica. Ovviamente ci sono dei nuovi indirizzi, quindi come ha detto la persona che ha parlato prima di me, la relatrice prima di me, è un punto di rottura, è effettivamente anche un cambiamento di rotta. Il contributo è stato scritto tra gennaio, dicembre e gennaio, e ovviamente quello che troverete nel libro sono un po' anche gli esempi e, diciamo, il tutto è stando a quella che era la situazione che era conosciuta, diciamo, allora, ecco, più o meno a gennaio del 2015. Ovviamente si sono succedute poi altre cose, no? Per esempio, quando cito la politica energetica e così, queste non erano conosciute al momento di scrivere l'articolo. Ovviamente il nuovo governatore Compaccio ha anche fatto delle promesse in campagna elettorale, ma anche poi di indirizzo della politica economica, ed è stato interessante anche capire fino a che punto questi indirizzi sono già, le promesse si sono tradotte in poche parole anche poi in scelte concrete. Non volevo adesso però fare un mostrare fare un quadro nero o bianco, insomma, dicendo Durnwalder tutto cattivo e Compaccio tutto buono o viceversa, ma vedere un po' quali sono, ecco, le scelte prese, tirando fuori anche quello che sì, probabilmente c'è del buono sia nell'uno che dell'altro. Anch'io inizialmente nel mio saggio, insomma, ho ovviamente puntato su quelli che sono, diciamo, che erano i grandi temi o gli eventi che hanno caratterizzato fortemente il 2014: lo scandalo sui vitalizi, lo scandalo sulla SEL e anche quello del Fondo Sociale Europeo, no? Sono tutti ovviamente dei temi che ci lega, che ci, fino ad oggi ci accompagnano, e quindi molto della politica forse di Compaccio che avrebbe voluto fare è stata anche un po' rallentata per questi, diciamo, eventi che io li ho chiamati cantieri ereditati, no? Cioè cantieri aperti o problemi ereditati dalla precedente giunta. Ho poi cercato di individuare quali sono state queste nuove scelte di indirizzo politico fatte da Compaccio. Beh, innanzitutto una scelta l'ha fatta subito quando si è insediato governatore, e è stata quella di dichiarare la politica economica come una competenza del capo, no? Also, Wirtschaftspolitik zur Chefsache, no? Si direbbe in tedesco, cioè lui stesso nelle sue competenze, mentre Durnwalder delegava, non so, a Frick o prima ancora e dopo a Widmann, la politica economica oggi è in mano del Landeshauptmann. Ha poi diciamo, dichiarato di voler instaurare un nuovo stile politico più partecipativo, con il coinvolgimento delle parti sociali, la Sozialpartnerschaft in tedesco. Ha dichiarato di voler un po' diciamo, andare verso l'autoresponsabilizzazione dei cittadini, no? Che lo Stato, insomma, la mano pubblica non può più fare sempre tutto, ma che deve esserci anche una corresponsabilità dei cittadini. Ha dichiarato che dobbiamo, vi ricorderete che il bilancio provinciale verrà azzerato, nel senso che verrà rivisto del tutto, sì, zero based budgeting, cioè si riparte e lo si ristruttura rivedendolo dall'inizio. Riduzioni fiscali, per esempio sull'IRAP o sull'addizionale IRPEF. Ha detto che ci saranno meno contributi, ma meno contributi ma anche meno tasse. Si utilizzerà, per quanto riguarda le sovvenzioni all'economia, meno i contributi a pioggia, no? Ma più contributi, pochi contributi, ma quelli che ci sono sono mirati, cioè per innovazione, per ricerca e sviluppo e quant'altro. E si utilizzerà anche di più il fondo di rotazione, quindi crediti e non contributi a pioggia e a fondo perduto, diciamo così. Poi alcune scelte che ha dichiarato di voler fare, strategiche, come il parco tecnologico a Bolzano, come l'unificazione di EOS, SMG, TIS e BLS in un'unica azienda, di voler, diciamo, rilanciare l'edilizia con un programma anche, diciamo, pubblico di investimenti, una nuova legge sugli appalti, l'ha già detto nel momento del suo insediamento, stiamo aspettando ad oggi. E per esempio ha anche subito detto che per, diciamo, personale qualificato voler defiscalizzare in un certo senso o dare dei contributi alle imprese che assumevano personale altamente qualificato. Alla fine cosa ho fatto? Ho fatto un po' ho messo a confronto quali erano un po' le caratteristiche della era Durnwald, dicendo però bene anche tutto quello che ha funzionato bene, no? Perché alla fin fine, se oggi siamo un paese dei più benestanti a livello europeo, e così è, no? Almeno ovviamente abbiamo anche noi dei problemi di povertà per una certa parte della popolazione, ma tutto sommato, insomma, all'interno dello scenario europeo siamo una regione che sta abbastanza bene, no? Però ovviamente ci sono anche delle cose dell'era Durnwald che gli sono sempre state anche rimproverate, quindi una scarsa democrazia, un po' questo atteggiamento divide impera, no? Cioè un po' a tutti, no? Mi è sembrato interessante paragonare questa vecchia politica, chiamiamo così, insomma, stile Durnwald con stile Compaccio. Per quanto riguarda adesso sulle nuove politiche, poi ho cercato di analizzare se per me queste rappresentavano luci o ombre, perché non ho visto adesso questo primo anno di Compaccio non ho visto solo luci, non ho neanche visto solo ombre. Per quanto riguarda le luci o le cose buone, ecco, a mio giudizio la legge di stabilità, di avere finalmente una certezza sulle entrate del bilancio provinciale, questa legge di stabilità fatta con Roma. Ho messo anche positivamente la politica energetica, adesso ovviamente anche qui nelle ultime settimane non si sente solo cose positive, però già il fatto di aver risolto un po' lo scandalo Selle, che alla fin fine ci sarà una società unica tra azienda elettrica e Sel, lo vedo come almeno di essere riuscito a evitare un danno che veramente per il bilancio provinciale poteva essere fatale. La riduzione del carico fiscale sia per le imprese che per i cittadini, quindi una volta con la riduzione dell'IRAP, che è la gran parte, ma poi anche dell'addizionale IRPEF, per esesempio, il fatto di essersi allontanato da questa politica dei contributi a pioggia, un po' a tutti, e di voler fare, diciamo, una politica più mirata, questo lo vedo anche positivamente, come anche quello di promuovere le assunzioni di personale qualificato e quello di aver posto le basi di unificare le quattro grandi strutture di marketing dell'Alto Adige in una. Però ci sono anche ombre, no? Tra le ombre, richiedere dopo 20 anni, 23 anni di era Durnwald ai cittadini adesso di autoresponsabilizzarsi in un certo senso così e buttando la palla così alle imprese, ha un effetto solo se questa palla effettivamente poi viene anche lanciando la palla alle imprese, non significa che questo poi si traduca in investimenti, no? abbiamo visto che nonostante ci siano le riduzioni fiscali, così gli investimenti non è che sono gran decollati ancora, no? Quindi la politica, diciamo, di defiscalizzazione così ancora non si è ancora tradotta in investimenti, in posti di lavoro. Questo adesso non è ad attribuire al governatore, in sostanza questo è una constatazione che al momento quello che si pensava, no? Diminuiamo il carico fiscale per le imprese, ci saranno quei posti di lavoro, in grande stile non c'è stato. Il finanziamento dei comuni secondo me sarà un tema che prossimamente sarà molto discusso, anche molto acceso, in modo molto acceso, perché con tutte le novità che ci sono state anche in quel settore, con l'IMU e con altre tasse e con altre, diciamo, normative a livello statale, oggi non si capisce bene chi riceve quanto e perché e come nei diversi comuni. Ci sono comuni, quelli che per esempio hanno centrali elettriche così, che non sanno cosa farsene dei soldi, e ci sono altri che veramente non riescono a garantire i servizi. Cioè, secondo me c'è un grosso disequilibrio. Non condivide? Poi su alcuni settori, come sulla politica agricola o sulla politica del turismo, non si vedono grandi impulsi, no? Per esempio anche tutta la questione dei pesticidi o su questioni nel turismo, qual è il concetto che sta dietro la promozione del turismo, dell'agio, non vedo qui una visione. E anche la stessa cosa vale per la politica commerciale, lo vediamo adesso nel caso Benco e vicinato, insomma, un po' qui anche su questo non c'è una la posizione è una non posizione al momento, in sostanza. E si deve anche riconoscere che tutta questa politica economica alla fin fine, al momento, va a favorire un po' le grandi imprese, no? Perché ci sono dei contributi più mirati per l'innovazione, per l'export, per il personale altamente qualificato, il parco tecnologico a Bolzano. Cioè è una politica che favorisce, diciamo, le imprese di una certa dimensione, chi può esportare, chi può fare innovazione, e questo tutto quanto va anche a minare un po' quello che è l'equilibrio sensibile tra centro e periferia, secondo me. E quindi questo è anche il motivo per cui il mio contributo si chiama La ricerca di nuovi equilibri. Secondo me, insomma, l'obiettivo del governo altoatesino dovrebbe essere quello, ecco, di ripensare questi equilibri o di vedere come ristabilire questi equilibri che sono tra città e periferia, tra piccole e grandi imprese, tra altamente tecnologizzate e imprese tradizionali, ma anche tra economia privata e intervento pubblico. L'ho scritto prima che ci sembrano con e quindi in sostanza ecco, questa ricerca di un po' di questi nuovi equilibri, secondo me, è la grande sfida. Inoltre, un'altra sfida è quella di, in un certo senso, non eccedere nelle ambizioni, perché la mia percezione è che al momento ci siano tantissimi cantieri aperti e, come sapete dal vostro lavoro quotidiano, se si hanno troppi cantieri aperti si rischia poi di fare tutto solo a metà. E quindi io concludo che il limite di Compaccio è rappresentato dalla sua stessa ambizione, dalla sua stessa impazienza. Bene, grazie. Ecco, avete avuto una infarinatura di quello che si trova in questa politica 15. E stiamo già lavorando per l'edizione 16, che si occuperà delle elezioni comunali, confrontando però queste elezioni comunali e i comuni stessi e la politica comunale del Tirolo, dell'Alto Adige, del Trentino, così abbiamo una visione un po' più ampia. Grazie. spesa piena. Sì, sì. Bene, allora vi ringrazio e saremo contenti se ci seguite anche in futuro, adesso che avete saputo che esiste anche pubblicamente. Grazie.